spelacchio dei sogni che sfiorano l'immenso, brucia come incenso. Questa è Babilonia, i popoli combattono a fame di vittoria. Hanno ucciso il ceto medio, fucilato spalla al muro. Un barile di petrolio sta salendo a peso d'oro. Qui la fame è tanta, anche se preghi a santa mamma Maria. Qui conti li facciamo con gli sbirri e polizia. Mani in alto, questa è una rapina. I conti sono in rosso e ora rubo la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I miei conti in rosso sono senza la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I conti sono in rosso e ora rubo la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I miei conti in rosso sono senza la benzina. Alcuni vostri pozzi ci sono fonti alternative. Se ci metti in gin ti fai viaggi senza fine. Basta arricchire le multinazionali che ci vogliono in mutande. Il petrolio sta finendo e poi ci succhiano il sangue. Ci succhiano il sangue, ci succhiano il sangue. Il nuovo cellulare che è uscito è troppo figo. Domani me lo compro perché sono troppo figo. Formentera vado al mare perché fa figo. E dopo quando torno mi mangio sto figo. Sex and the City style, ma dove cazzo vai? Sex and the City style, ma dove cazzo vai? Mani in alto, questa è una rapina. I conti sono in rosso e ora rubo la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I miei conti in rosso sono senza la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I conti sono in rosso e ora rubo la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I miei conti in rosso sono senza la benzina. Ecco pass, cool cats, che pass. Io lascio la macchina a gas. Vi rubo la benzina come Mad Max. E in penna porto fino sopra un TV Max. Vi rubo dalle mani le coppe di champagne. Poi vado a Porto Cervo vestito extra large. Vi rubo la Porsche, la villa, la figa. Se prova sta cloche diventa mia amica. Vi rubo il Rolex, gli amici la Visa. Perché sti bastardi ci ha rubato la vita. Rubato la vita, rubato la vita. Rubato la vita. Questa è una rapina, i conti sono in rosso e ora rubo la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I miei conti in rosso sono senza la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I conti sono in rosso e ora rubo la benzina. Mani in alto, questa è una rapina. I miei conti in rosso sono senza la benzina.